Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Perché nessuno parla dei trasferimenti delle aziende all'estero? Abito a Camerano, in provincia di Ancona, dove tra i grandi gruppi, la Indesit e la Best, hanno aperto in Polonia e chiuso a Fabriano. Il gruppo Elica ha aperto in Polonia e in Messico, portandosi tutto l'indotto. E tutti i dipendenti cosa andranno a fare? I precari andranno da qualche parte? Lavori 3 mesi e 3 mesi stai a casa? Mi piace paragonare l'economia a un frutteto. Se il contadino cura e protegge le sue piante, anche potando, queste daranno frutti, buoni e di qualità. Se il contadino passa poco tempo con loro, si accorgerà in ritardo di malattie fatali e soprattutto deve fare il contadino chi sa fare il contadino. Vedo la nostra situazione con molto pessimismo. Corrado. È davvero desolante sentire la pietosa situazione della politica italiana. Vivo in Cina, sono a contatto tutti i giorni con le imprese italiane e conosco a fondo le difficoltà che stanno incontrando in questo momento. La politica sembra veramente lontana da questo e appare del tutto inconsapevole della gravità della situazione delle imprese, impegnata com'è a rincorrere le banalità e gli aspetti superficiali del potere. L'opinione corrente degli espatriati in Cina è davvero di grande desolazione. Nello. In merito alla questione della vigilanza Rai, vorrei porre una domanda a monte, che forse molti altri si pongono. Che senso ha questa commissione? A cosa serve? E se serve a qualcosa, perché vigila solo sulla Rai? Francesco. Vorrei segnalare che già la precedente legislatura di Berlusconi aveva dato il via alla digitalizzazione dei sistemi e servizi che lo Stato offre al cittadino, allo scopo di snellire buona parte della burocrazia. All'interno di questo progetto, una serie di comuni pilota, tra il quale il mio, Asti, ha iniziato da alcuni anni a rilasciare la carta di identità elettronica. Sono quindi alcuni anni che con questa nuova carta di identità il comune sta rilevando l'impronta digitale, acquisita mediante la lettura ottica del dito indice della mano sinistra. E la cosa non ha provocato nessuna polemica né scandalo. Questi dati vengono memorizzati sul microchip e consentiranno, tra le altre cose, nel futuro, a seguito dell'attivazione dei lettori informatici della carta, la sostituzione del numero di codice personale, PIN, con la garanzia per il cittadino di un accesso ai servizi in una condizione di sicurezza assoluta. Io mi chiedo, perché la rilevazione di impronte per la carta di identità elettronica ai normali cittadini non fa scandalo, mentre se si propone la stessa cosa per gli zingari, che come cittadini italiani sarebbero tenuti ad avere un documento di riconoscimento, si viene accusati di essere razzisti anche dalla comunità europea e questo atto viene considerato quasi xenofobo. Quando è che passeremo da una società di diritti a una di doveri? Filippo. I controsoffitti impediscono il controllo visivo dello stato di conservazione del soffitto, ovvero della soletta portante. Se tale elemento si deteriora, viene meno il sostegno del controsoffitto. Il controsoffitto piace molto ad architetti e progettisti, proprio perché può nascondere bene una vecchia struttura, ma non è la soluzione di tutti i problemi. Inoltre, l'interno del controsoffitto non è pulibile e potrebbe diventare poco igienico. Cari enti locali e amministratori pubblici, prendetene atto. Per l'edilizia pubblica siete voi i responsabili. Marco. Mia moglie è impiegata presso il comune di Napoli come agente di polizia municipale e ci siamo spesso trovati a parlare della cattiva gestione di risorse e del personale fatta in questo comune. Ma il punto qui è più specificatamente il discorso della produttività, che non è chiamato straordinario. La produttività per il Comune di Napoli è quel lavoro svolto oltre il normale orario, programmato, e retribuito con parte del denaro proveniente dalle contravvenzioni, che la legge prevede possa essere destinato come premio di produzione agli agenti. Cioè è denaro che gli agenti hanno già guadagnato e che, per così dire, viene fatto lavorare 2 volte. Preciso che i comuni chiamano produttività a questo tipo di lavoro, perché la legge impone loro di assumere personale in presenza di straordinario programmato. Inoltre, la produttività, volendo essere rigorosi, dovrebbe essere il maggior lavoro svolto nel turno di servizio, non al di fuori di esso. Per quanto riguarda gli ufficiali superiori e i capi sezione, viene invece istituito un premio produzione da fare a fine anno per gli obiettivi raggiunti, il PEG. Essendo questi dirigenti, anche ciò è lecito. E capita quindi che se tra gli obiettivi ci sia, per esempio, la riduzione dell'inquinamento, vadano contabilizzati a fine anno un tot di contravvenzioni a ciò riferite. Ad esempio, bollino blu, revisioni, circolazione durante le limitazioni della stessa, eccetera. Il bello viene quando, a fine anno, ci si accorge che alcune cifre non corrispondono all'obiettivo in questione. Se, per esempio, si era calcolato che per l'obiettivo sicurezza bisognava fare, 10.000 verbali per il casco, 12.000 per la cintura di sicurezza, e si vede che a ottobre, novembre, per le cinture ne sono stati fatti 15.000, ma per i caschi solo 8.000, cominciano ad arrivare pressioni per elevare questo tipo specifico di contravvenzioni. Da premettere che gli obiettivi del PEG non sono noti agli agenti, i quali non beneficiano degli stessi, anzi gli agenti cominciano a intuire gli obiettivi del PEG proprio a fine anno, quando arrivano queste circolari interne un po' troppo specifiche. Il trucco sta nel non considerare percentuali sugli incassi da contravvenzione, ma premi da conseguimento obiettivi, che solo per puro caso sono organizzati come numero di verbali e contravvenzioni. CRI. Egregio direttore, come tutti sappiamo, l'evasione fiscale è un fenomeno che incide pesantemente sul PIL del nostro paese. Molti ne parlano, pochi con cognizione di causa. Ad esempio, credo che pochi cittadini italiani sappiano che la maggior parte della lotta all'evasione è svolta dall'Agenzia delle Entrate e non dalla Guardia di Finanza, che pure svolge un'eccellente funzione di supporto e combatte reati di tipo valutario, di contrabbando, di ricettazione, di contraffazione, di spaccio di stupefacenti, eccetera. Ma è l'Agenzia delle Entrate che emette gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli accertamenti con adesione, che cura il contenzioso tributario dal primo grado alla Cassazione, che iscrive a ruolo gli importi da riscuotere, eccetera, e che fa le verifiche fiscali come la Guardia di Finanza. Solo che la Guardia di Finanza ha le macchine di servizio, mentre noi, verificatori di serie B, dobbiamo usare i mezzi propri, ovvero le nostre macchine e i mezzi pubblici, con indennità ridicole che spesso non coprono neanche il 50% delle spese. Altrettanto pochi cittadini saranno a conoscenza del fatto che un funzionario di terza area dell'agenzia, l'area che precede la dirigenza, percepisce uno stipendio netto che va dai 1.500 euro fino a un massimo di circa 1.900, funzionari in posizione apicale con 30-40 anni di servizio. Gli altri dipendenti arrivano a 1.200-1.300 euro netti circa. Abbiamo responsabilità immense e non godiamo neanche di un'assicurazione sui rischi patrimoniali se non ce la paghiamo da soli. Tanto premesso, il ministro Brunetta ha deciso di toglierci il premio di produttività, circa 2.000-2.500 euro netti l'anno, perché ritiene non sia corrisposto con criteri meritocratici e gli aumenti contrattuali si stimano ben al di sotto dei 100 euro netti al mese, con un'inflazione annua effettiva, attuale, superiore al 3%. Rispetto i lavoratori dell'Alitalia e tutti i lavoratori in genere, ma l'Agenzia delle Entrate è l'unica amministrazione pubblica che genera entrate nelle casse dello Stato, l'unica. Tutte le altre spendono quello che il governo stanzia in finanziaria. Non le sembra che se si volesse veramente combattere l'evasione fiscale, bisognerebbe fornire risorse aggiuntive all'Agenzia delle Entrate? Non conviene con me che è grottesco che io debba pagare di tasca mia l'abbonamento a pubblicazioni fiscali, indispensabili per svolgere coscienziosamente un lavoro che richiede una professionalità di elevatissimo livello? Pensa che sia giusto che commessi e funzionari del Parlamento o del Quirinale guadagnino 3-4 volte i nostri stipendi? Negli altri paesi europei, gli 007 del fisco sono trattati in maniera molto diversa, perché i governi sanno che l'evasione fiscale vale 10 finanziarie in fila. L'Italia sembra non saperlo. Luca. Il bilancio delle vittime nostrane dovute al traffico è degno di un teatro di guerra, ma viene preso quasi con noncuranza. Certo, se ne denuncia il fatto, le famiglie piangono, i comitati insorgono, si chiama lo Stato a maggior severità delle pene. Ma perché non si va a monte? Quando si acquista un cinquantino, un motorino della cilindrata minima, ci viene dato con prestazioni conformate alla legge e quindi fa 50 km orari. Poi molti lo taroccano, ma a proprio rischio. In questi casi sono previsti il sequestro e l'annullamento delle garanzie assicurative. Perché allora le auto vengono consegnate con prestazioni fuori legge? Non credete che auto che non possono superare i 150 km orari sarebbero più sicure, potrebbero essere più comode e certamente, non ultimo, più economiche, sia in termini di costo del veicolo che di consumi. Il mercato non ne risentirebbe se tutte avessero la stessa cilindrata e ad ogni verifica periodica gli enti preposti potrebbero controllare che il mezzo non sia stato taroccato e che venisse colto a guidare a velocità superiore. Si vedrebbe sequestrare il mezzo. Alle officine che si prestano alle modifiche fuori legge potrebbe essere somministrata una terapeutica chiusura per una settimana, con obbligo di pagare comunque lo stipendio ai dipendenti. Non mi sembra una riforma infattibile e nemmeno vessatoria della libertà dei cittadini. Vieterei anche la pubblicità che inneggia alle prestazioni, perché in un paese in cui non si può pubblicizzare il fumo perché nuoce a te e a chi ti sta intorno, trovo anacronistico esaltare i 100 km orari in 8 secondi e i 240 di punta. Franco. Sabato scorso ho ritirato i giornali dalla buca delle lettere e ho visto che La Stampa titolava a tantissime colonne «Tutti i problemi di Veltroni». Per un attimo ho pensato «No, non può essere vero». E invece purtroppo era vero. C'era proprio scritto così. È vero che bisogna essere ottimisti, che non bisogna parlare di evasione fiscale, di crisi finanziaria, di debito pubblico, di gente che vive con pochissimo, di pensionati che vivono con pochissimo, di cassa integrazione, di precari lasciati a casa. È vero che se sei ottimista anche quelli che stanno peggio staranno meglio. Ma forse, magari, darsi da fare e risolvere i problemi sarebbe il modo migliore per essere ottimisti. Non basta dire le cose perché si avverino. Ho pensato, ma tu guarda, evidentemente se il problema italiano sono i problemi di Veltroni, allora significa che di problemi veri non ce ne sono. E stiamo benissimo. Evviva! Allora stiamo da rababbi. Poi è singolare. I guai li hanno provocati altri e quindi dovrebbero gioire quelli che stanno peggio. Quelli a cui viene da piangere di rabbia quando non ce la fanno più ad andare avanti. Sergio. Un modello economico basato su una continua crescita non può reggere. E un sistema che funziona come una specie di catena di Sant'Antonio è destinato inesorabilmente a crollare. La progressione prevede infatti che un mercato che fino al giorno prima era fruibile per la metà, il giorno dopo sarà saturo. Per comprenderlo, basta riferirsi al famoso paradosso dell'ago e dell'alga. L'alga prolifera, raddoppiando periodicamente la propria crescita. Per molto tempo, solo la metà del lago viene occupata dall'alga, ma poi, inesorabilmente, tutto il lago ne verrà ricoperto. Io temo che questo stia succedendo anche con l'attuale crisi. Ci sono però pochi economisti che cavalcano questa teoria dell'impossibilità della continua crescita. Sergio. Caro Sergio, mi permetta, la sua visione dell'economia ha un piccolo difetto. Lei immagina il sistema economico come una realtà statica e definita e infatti fa il paradosso dell'alga e del lago, in cui l'alga cresce, ma il lago è per sua natura chiuso. Ma il sistema economico non è così, è per sua natura dinamico, in continuo movimento, in progressivo adattamento ai bisogni esterni, alle potenzialità di innovazione. La storia del mondo è una storia di crescita, certo con qualche crollo, con crisi più o meno gravi, ma sempre l'umanità ha saputo trovare nuove strade per migliorare la propria condizione. E anche ora di necessità di migliorare ce ne sono molte. Pensiamo alle aree povere del nostro paese, alle vaste aree di povertà in molte aree del mondo. Pensiamo alla possibilità di vivere in case più grandi, in città meno inquinate, in ambienti più confortevoli. Pensiamo ai progressi che si possono e si devono ancora compiere nella medicina. La crescita fa parte del cuore dell'uomo. Se noi ci fermiamo, sicuramente qualcun altro prenderà il nostro posto. Per questo è necessario continuare a avere fiducia, nonostante tutto. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.